gente per me. Eh sì, eh. Grazie per essere intervenuti. Insomma, dobbiamo fare un po' prima così a fiducia, perché dico non è ancora qui, ma hanno promesso che ancora dovrebbe arrivare. È il risultato, una tappa di un progetto che è nato circa 8 anni fa, forse anche di più, adesso io non ho bene in mente quanto tempo è che questo progetto è attivo, forse un po' di più, 8-9 anni. La cosa era molto semplice, insomma, ecco, portare dentro l'Accademia una situazione, come dire, extra, una situazione extra che però ovviamente in qualche modo ritenavamo, affrontando degli argomenti appunto che erano fuori dai programmi canonici, ritenavamo appunto che potesse essere un momento utile per dibattere dei problemi che di volta in volta venivano individuati come importanti nel dibattito culturale in generale. È interessante secondo me anche il metodo, la metodologia che sottintende tutto questo progetto, nel senso che tutto è venuto in maniera molto, molto fluida, molto spontanea, nel senso che tutto è funzionato con degli incontri così casuali nel corridoio, con Antonio, gli incontri più belli che ho fatto con Antonio, che mi avevo messo pure ad avvicinarmi ad Antonio, abbiamo fatto il bagno, insomma, fumando la sigaretta clandestina, con Paolo i temi da trattare che abbiamo deciso in 2 minuti praticamente, cioè bastano 4 parole, un accenno. Anche per leggere dalle preparate. Beh, non spesso anche tu, insomma, hai fatto delle cose, questo è davvero. Quindi ecco, sembra, cioè, volevo anche un attimo mettere in luce questo aspetto, insomma, no? una certa spontaneità. Quello che è uscito fuori, a mio avviso, per me perlomeno, è stata un'esperienza molto interessante. Io ho preso tantissimo dagli amici relatori di questo tipo di corso. È un traguardo, il libro, che poi abbiamo detto che non è un libro ma un quaderno, perché la nostra intenzione è fornire uno strumento didattico, non proprio un libro, appunto un quaderno dove prendere degli appunti. Anche graficamente abbiamo pensato a questi temi, poi quando arriverà lo vedremo. È una cosa fatta. Non ce l'abbiamo, però vi assicuriamo che è una cosa, che è una cosa fatta. Però come fai a essere quasi? Però sappiamo che le cose fatte in realtà non esistono. Anche quando pensiamo di stare di fronte a una cosa fatta, in realtà che non possiamo proseguire, anche in quel caso siamo costretti a ripeterla. E la ripetizione è in qualche modo nel nostro DNA. Noi sappiamo perfettamente che proprio siamo condannati, siamo destinati a ripetere, Franco direbbe, la scrittura del cosmo in qualche modo, la scrittura della stessa costellazione, cercando però in questa ripetizione una differenza. Quindi questa cosa è fatta. Io mi auguro però, perché appunto non mi auguro che questa cosa venga ripresa da altri, più coraggiosi di noi, spero, e che riprendendola si sviluppi su altre direzioni. Una direzione possibile che io ho sentito negli ultimi periodi era quello di trasformare questa esperienza un'esperienza appunto che nasce in maniera collettiva, cioè non sono io, non è Paolo, insomma siamo tutti, ce l'ha anche un comitato scientifico, un comitato che di volta in volta facevano le loro proposte su un tema che abbiamo scelto. Io mi auguro appunto che questa esperienza venga ripresa con coraggio e le indicazioni che io avevo dato e che ripropongo di nuovo è che questo tipo di esperienza trovi, come dire, uno sviluppo ulteriore, anche perché se dobbiamo misurare il successo, tra virgolette, di questo tipo di attività, beh, insomma, bisognerebbe discutere abbastanza a lungo, perché di presenze di studenti in realtà sono state abbastanza scarse, insomma, non abbiamo fatto degli incontri con personalità notevoli, con una presenza veramente imbarazzante, insomma, di partecipazione degli studenti. Per rimediare, per cercare di superare questa scarsa partecipazione, negli ultimi tempi abbiamo pensato di mettere dei crediti, questo ricatto, di utilizzare il ricatto dei crediti. E non ha funzionato nella stessa maniera, neanche con i crediti ha funzionato. Un sistema, insomma, molto spiacevole, perché è evidente che era un ricatto, ma tu vieni e ti do dei crediti. Superare questa cosa qui era il tentativo, insomma, della mia riflessione c'era questo tentativo di superare questa situazione. E tra le proposte che io ho fatto, e spero che qualcuno le raccolga e le porta avanti, era quello di trasformare questa metodologia didattica, che davvero per una metodologia didattica, in qualche cosa di più organico, tra virgolette, non so adesso bene come spiegarmi, però dovrebbe diventare una sorta di corso specialistico pirata. Il mio modello, quello a cui faccio riferimento perché conosco maggiormente, ci sono dei modelli di questo genere, quello a cui io faccio riferimento ad esempio è la LUMA, la Libera Università Metropolitana, che si trova a Roma, ma anche qui per esempio ce ne sono alcuni. Franco Perardi da qualche tempo, da un paio d'anni, sta lavorando attivamente su una scuola europea, la SHEPS, che poi magari ci dirà qualche cosa in più su questa esperienza, ovviamente in dimensioni molto diverse, più grandi, non è legata a una scuola. Antonio Caronia quest'anno ha organizzato, aspetta che c'è, ce ne fai qualche cosina, ha organizzato dei seminari strani, molto particolari, un seminario centrato sul fluore. È una cosa molto particolare perché non rilascia nessun attestato. Ne conosco altre di situazioni, ne ho sentito recentemente parlare di una situazione molto simile, un'esperienza molto simile che è stata fatta a Düsseldorf, se non ricordo male, all'interno dell'Accademia, all'interno dell'istituzione c'è un corso specialistico in cui si rilascia un attestato, quindi un diploma di laurea specialistica, però non ci sono né esami né voti, e la cosa sembrerebbe che funziona davvero male. Ecco, io adesso chiudo, insomma, diciamo così, questa breve introduzione. Niente, lascio un attimo la parola a Paolo Rosa, che insieme a me ha curato sia il ciclo di conferenze e il libro che un po' aperto. Sì, intanto io voglio dire che questo libro esisterà fra pochi minuti. Se esiste, è perché, diciamo, Mauro ci ha messo veramente l'anima per cavarlo fuori dal nulla, nel senso che si è preso la briga di rivedere tutti i testi, di correggere, di contattare tutti gli autori, quindi ha fatto veramente un lavoro di costruzione straordinario e il merito è assolutamente tutto suo. Io sono magari più bravo a iniziare le cose e come finire, per cui questa roba qui che corrisponde a focus è una cosa che è iniziata molti anni fa con una volontà precisa che è quella di, che ha già anticipato Mauro, di creare, diciamo, una condizione di pluriculturalità e di molteplici voci e pluridisciplinarietà all'interno dei contributi. E questo è stato senz'altro per me, credo, un aspetto strategico della Scuola di Nuove Tecnologie, perché tutto questo, diciamo, avviene all'interno della Scuola di Nuove Tecnologie, anche se era aperta a tutti. È un aspetto strategico, ma in quel momento iniziale, che la scuola non era ancora così grande come lo è adesso, ha avuto anche, questa è stata forse l'epoca in cui ha avuto più riscontro dal punto di vista della presenza degli studenti, perché abbiamo usato un metodo, diciamo così, vagamente coercitivo, cioè nel senso, ma ovviamente coercitivo, nel senso che abbiamo lavorato sull'immaginario della sospensione della lezione. Cioè pensare che le lezioni sono sospese, questa volta non per eventi di varia natura, ma perché ci si ferma un attimo e tutti vanno a quella conferenza, tutti quelli che vogliono vanno alla conferenza. Quindi all'inizio Focus nasce come un momento, io l'ho chiamato poi nella piccola, diciamo, avvertenza iniziale, l'ho chiamato un'apnea culturale, cioè bisognava, come dire, rispetto al corso di studi e alla normalità degli interessi, per un attimo trattenere il fiato, avere il coraggio anche di sentire, la voglia, la disponibilità di sentire contributi che arrivavano da settori apparentemente molto lontani anche dalla nostra concezione, dalla nostra, diciamo, interesse, dal nostro cerchio di interessi, ma che ogni volta trovavamo invece ambiti di fertilizzazione e di invece comunanza davvero inimmaginabili all'inizio. Faccio riferimento ad alcuni interventi che abbiamo fatto nell'arco di questi anni, dall'astrofisica alla psichiatria, dall'economia, insomma, da ambiti che sembravano un po' esterni, ma che non avrebbero attirato un pubblico, diciamo, che magari ha interesse a uno specifico, ma che nel momento in cui tu un po' li convogli, li condizioni, forse qui io credo che in una scuola bisogna trovare anche questi momenti di interruzione, cioè dei momenti di contrattempo, dobbiamo generarli, no? Che non sono solamente quelli quando c'è l'autogestione, quando c'è, ma anche istituzionalmente, diciamo, momenti in cui si sospendono le lezioni e si introduce qualcosa di diverso che crea quel momento di, come dire, di deviazione, di improvvisazione, di sorpresa a volte, che arricchisce anche un corso di studi che se no si burocratizza, si fossilizza, lo studente che andando alle lezioni c'è sempre qualche lezione da fare, l'insegnante che c'è sempre da fare, eccetera, eccetera. Lì quindi era un momento di convergenza e io su questo rivendico che possa essere ancora una pratica utilizzabile. Momento di convergenza in cui tutta la scuola, insegnanti e studenti, si riunivano, ascoltavano, interagivano con questi saperi differenti. Penso che sia un modello che possa essere, diciamo, affiancato anche a quello che Mauro citava prima, su cui noi abbiamo anche dibattuto, se non sbaglio, un po' l'anno scorso, perché cioè, ci trovavamo leggermente in disaccordo su questa indifferenza, bonariamente indifferenza, sul fatto di istituzionalizzarlo come un corso libero o invece di magari mantenerlo con questo aspetto, cioè è sul concetto di pirata, che se istituzionalizzarlo, diciamo, con una libertà piratesco, altrettanto secondo me lo è sospendendo decisamente la scuola per un attimo. Quindi si tratta di capire meglio qual è la strategia, qual è la cosa, però l'intenzione è la medesima. E devo dire che l'altro sabato scorso mi sono rimmerso un po' nella lettura di questo libro, che vedrete è un libro abbastanza austero, come lo è questa presentazione, questo grigio, insomma, che si avvolge. E in questa austerità però c'è un contenuto veramente di una brillantezza straordinaria. Devo dire che non avevo l'intenzione di leggerlo per un'altra volta, ma mi sono rimpigliato dentro quelle trame lì. Ho cominciato a leggere quasi a caso una pagina e a quel punto mi sono immerso nella lettura, mi sono perso tra un intervento e l'altro, e devo dire che ancora una volta l'ho sentito come un nutrimento straordinario. Ci sono interventi di grandissimo spessore, sono interventi scelti, interventi che hanno una marcata pertinenza con gli orizzonti e i territori che stiamo in qualche modo praticando, esplorando. E questi saperi sono tutti saperi che ci sono di aiuto, perché è in fondo, credo, la cultura del nostro tempo, quello di aver capito, forse da quando noi eravamo un po' più giovani, che la presunta rivoluzione sociale e politica che in qualche modo si delineava nei nostri ideali si è trasformata decisamente in una rivoluzione antropologica realmente avvenuta. In questa mutazione antropologica tutti i saperi stanno ridiscutendo in qualche misura il loro statuto. E quindi, diciamo, quello che succede in una disciplina, anche se apparentemente lontana, può essere molto utile per quello che accade a te. Ne puoi mutuare non solo la conoscenza specifica della disciplina, ma anche le modalità di approccio, i dubbi, le pratiche, le metodologie. Io credo che questo possa essere il contributo di questo quaderno, che appunto si propone in una maniera molto austera, ma secondo me è di una straordinaria ricchezza. E lo dico, non so, per passare oltre che naturalmente dagli interventi dei presenti, anche attraverso le parole che, non so, ci ha raccontato Miguel Benassaiaghi, ad esempio, forme, le storie, le teorie che ci propone una persona come Righetti, che è uno psichiatra che ha lavorato con Basaglia, che ci racconta tutta una storia anche di imprenditoria sociale molto interessante, le tantissimi contributi che adesso non voglio neanche raccontare, mi manca qualcuno purtroppo perché non è riuscito, ma parlo al singolare suo, a trascriverlo per mancanza anche di tempi, eccetera. Ad esempio quello di Farinelli, che è un geografo, che ha comunque anche lui... Rimedieremo, spero. Sicuramente nel 2. Abbiamo un po' perso per strada l'intervento di Giorgio Celli, che è stato uno dei primi interventi, un etologo, che è stato di grandissima efficacia nel raccontarci le intelligenze connettive e collettive, ad esempio del mondo delle api. Ecco, tutte queste cose che apparentemente non sono di grande appeal se le dici, comunici a una conferenza di questo genere, una volta però che ci sei dentro ti vieni proprio avvolto dalla straordinaria avventura di quella conoscenza. Quindi lo spirito è stato un pochino questo, ma credo che sia lo spirito che deve costituire un po' la nostra disciplina, soprattutto quella che si occupa anche di questi nuovi linguaggi che sono all'origine di quella mutazione, di quella rivoluzione che dicevo prima, perché insomma nasce un po' tutto anche da questo, dalla trasformazione che hanno i grandi media, i grandi mezzi di comunicazione, a partire dai linguaggi e delle tecniche. Ecco, penso che noi dobbiamo riuscire a confrontarci con questi linguaggi dominanti, dobbiamo riuscire a trovare gli elementi, come dire, di anticorpi, la dimensione omeopatica, insomma, che l'arte può rappresentare in queste trasformazioni, e per farlo deve sicuramente comunque aprirsi a queste conoscenze, a queste interferenze, ma io direi soprattutto a queste impollinazioni che sono frutto di questi pensieri anche collaterali di altre discipline. Non faccio un'introduzione al libro, non ce n'è bisogno, lo scrivo anche nelle prime battute del mio testo, perché mi sembra che sia possibile anche da ricavarci un insieme. Sono tantissimi spunti, e questa è anche la sua ricchezza, e va tenuta così senza volerla imbrigliare. Io racconto appunto nell'introduzione che forse è meglio che questa ricchezza ognuno se la traduca in un proprio modo di navigare questi pensieri, e quindi non voglio, diciamo, trarne delle fila precise. Preferirei magari adesso dare la parola a due che sono protagonisti della nostra esperienza didattica, ma anche l'hanno partecipato anche come relatori, quindi dall'interno e dall'esterno, in questa iniziativa di Focus, che io sono convinto possa essere uno degli elementi, questo lo voglio dire, per anche riformulare, rifondare una scuola che in questo momento ha bisogno di essere anche riverniciata e forse anche ristrutturata un pochino. Non so cosa ne pensano gli studenti, ma io penso che ci sia una convergenza su questo pensiero e possa essere uno degli elementi su cui far ruotare poi anche un cambiamento proprio anche strutturale della scuola. E quando dico la scuola delle nuove tecnologie, ma penso con più amarezza in gen grande a tutta l'Accademia che credo stia in fronte a un periodo di grandissima difficoltà, avendo davanti anch'essa diciamo, un periodo di mutazione dal trasferimento della sede al momento di doversi aggiornare, a dover competere con altri istituti che sono aggressivi, che sono comunque si sovrappongono anche a quello che è la storia di questa Accademia, che non può più pensare di vivere solamente sull'inerzia della sua antica storia che si sta purtroppo anche spegnendo un pochino. E il trasferimento sarà simbolicamente un momento molto cruciale, perché vuol dire liberarsi di questa storia, ma liberarsi vuol dire anche perderla in qualche modo. E quindi bisogna capire se siamo in grado di riconquistarne un'altra. Bisogna forse trovare anche la maniera di rigenerare questa istituzione, perché io ritengo che sia una grandissima ricchezza anche nella sua diversità, nel panorama diciamo formativo, e penso che potrebbe essere uno dei nodi cruciali che in qualche modo nella creazione di talenti, di talenti e di creatività che però hanno un forte fondamento etico, un forte fondamento di senso di responsabilità anche sociale, possa essere una delle chiavi per tentare di risorgere anche rispetto a un'epoca un po' inquietante, se non a volte anche drammatica, come quella che ci sta, anzi, in cui siamo già immersi, diciamo. Tony. Io? Parli tu? Tu, non parlo. Io? Guarda, no, come tu. Tanto sarò breve. No, lo so, vai. Mi rendo conto che... Puoi sederti qua? No, sto bene qua, mi fa una roba che non so. Visto che Mauro mi ha ormai inchiodato a questo ruolo di conferenziere performer, però anche in questo caso. Allora, vorrei brevemente, diciamo, in onore di questa iniziativa Focus, che ovviamente questo succede quando non deve succedere, ma noi non lo facciamo succedere. Diciamo questa iniziativa di Focus, che ovviamente non è da, cioè non è neanche e forse neanche emblematico della attività della scuola di nuove tecnologie di Brera, però ne è una componente, insomma, piccola, anche minima forse, ma importante, diciamo, adesso non voglio, diciamo un po' come il sale, un po' come una spezia, un po' come un condimento che nel generale bouillon dell'offerta formativa, mi scuso per averla così declassata, non è che siamo declassati, perché grande gourmet. Allora, quindi c'entra anche questo. Allora, mi sentirei di proporre questa chiave di lettura. Che cosa ha portato Focus all'esperienza della scuola di nuove tecnologie? Ha portato, mi sentirei di dire, l'esagerazione. Focus è un'esperienza esagerata. Adesso so che vi direte, ma io ho la soluzione segreta di questo apparente. In realtà, che cosa, qual è l'etimo del verbo esagerare e della parola esagerata? Non è complicato, è meno complicato dell'etimo della parola emancipare che Mauro ha, come dire, voluto mettere così in primo piano nella presentazione di questo dove, ma è interessante pure questo. Esagerare deriva dal il verbo latino esagerare, exagerare, deriva dal prefisso ex, che vuol dire tante cose, ma in questo caso vuol dire un po' come il set di seduzione, secondo Baudrillard, è uno spostamento, diciamo, laterale, rispetto a che cosa? Rispetto all'agger. Esagerare è ex-aggerare, uscire dall'agger. Cos'è l'agger? L'agger è il solco che traccia l'aratro quando si ara un campo. E quindi, per esempio, quando si fonda una città. Le città, sapete, sono tutte fondate con l'eroe eponimo, alcune con il cadavere del fratello gemello dell'eroe eponimo che giace accanto, ma non tutte, in particolare una che è piuttosto importante per noi, ovviamente, che è Roma. In altri casi non c'è questa cosa. Comunque, insomma, c'è uno in genere che diciamo guida un aratro e traccia un solco, no? Traccia un solco. Cosa fa quando ha finito di tracciare questo solco? Cosa fa quando tutto il mito classico è pieno di storie di pelli di bue tagliate in striscioline finissime per diciamo racchiudere la più grande superficie possibile, bla bla bla, è piena di che, comunque, diciamo, fondare una città vuol dire in primo luogo delimitare un perimetro e all'interno di questo perimetro dire questa è la città, questa è la urs. Ovviamente quando è che si interrompe questo, si può interrompere questo movimento continuo del vomere che scava, diciamo, la terra guidata più o meno dal bue o da una coppia di buoi o da un bue da un asino, la varietà dei miti qua è ad libitum, come dire veramente. Beh, non si può, veramente intanto quando si è finito, quando si è concluso, quando la fine del solco si è ricongiunta con, diciamo, l'inizio, abbiamo fondato la città. Certamente si può interrompere anche quando avviene un episodio lievemente diverso. Per esempio, quando il fratello gemello di colui che sta guidando, di colui che sta tracciando questo solco, avvisato dall'altro fratello, dal gemello che conduce il cammino, mi raccomando, non fare il cretino come fai di solito, saltando avanti Andrea a fare il giocherello che ti dice, ma stai tranquillo, stiamo fondando una città che può darsi pure che abbia un certo futuro, che diavolo serve? Niente, questo continua, ovviamente questo, come vorrete tutti, che è Remo, quello che è stato reso più, diciamo, famoso dal nostro ex presidente del Consiglio come Remolo, il massonato con Romolo, perché evidentemente non si può chiamare Romolo, Remo, ma Romolo esiste. Giustamente la TV, azzerando il differente, fa Romolo e Remolo. Chiamiamolo Remolo pure noi, tanto Romolo ormai che deve fare non fa più nulla. Allora, questo povero Remolo, insomma, che era un po' un cretinetto, era quello che faceva cretinetto, era aveva un'altra funzione, però insomma, come c'è stato tramandato, ovviamente il potere ce la tramanda, poi siccome quello che ho vissuto è Romolo che ha scritto la storia e non il povero Remo, che era. Comunque, insomma, a un certo punto, insomma, Romolo aveva più trovare il pao al culo e gli dà un bel colpo di gladio sulla testa, di bronzo, probabilmente perché il ferro ancora non c'era, non era così diffuso nel VII secolo a.C. in Italia. E quindi, insomma, questa è la storia della fondazione della diciamo città, che è la, e quindi cosa viene? Esagerare quindi per ammazzare diciamo Remo, che ci sta disturbando questo bellissimo rito di fondazione, ma allora bisogna fare quello che bisogna fare, bisogna esagerare, bisogna fermare l'aratro, uscire dal solco, andare dentro o fuori, ma io penso più probabilmente fuori, perché evidentemente è fuori in questo momento quello che conta, non interessa, e ovviamente ammazzare il, cioè, insomma, come dire, punire, insomma, mettere fuori uso, senza il, come dire, questa presenza oscura, disturbatrice, il doppio del fondatore della nostra città, che comincia con tutte le storie che noi dobbiamo dire, esagerare. Questa è l'esagerazione, poi certamente questa è l'esagerazione archetipica, poi dall'archetipo, quando poi si scende, quindi diciamo si degrada un po' questa pratica. Però l'esagerazione in qualche modo porta sempre, io credo, dentro di sé, in qualche maniera, un ricordo di questa antica radicalità, di questa originaria o primigenia radicalità del gesto di uscire dal solco. Se non si esce dal solco, se si rimane nel solco, certo, va bene, se si fanno tutte le cose per bene, eccetera, eccetera, siamo tutti a posto. Ma se non si esce in qualche momento dal solco, non si riesce a conquistare una prospettiva diversa, un qualche cosa diversa. Io credo che Focus sia stato sino dall'inizio una esagerazione, sia in questo senso più, diciamo, letterale, peraltro ai più, diciamo, sconosciuto o ai più dimenticato, sia nel senso in qualche maniera figurato. E mi pare che sia particolare, cioè questo va bene per qualsiasi cosa, qualsiasi attività, noi, qualsiasi collana noi avessimo, come dire, insomma, diciamo, progettato, a cui avessimo dato vita, sarebbe andata più o meno sempre bene questa metafora. Ma mi piace pensare che sia particolarmente significativa nel caso dell'arte, perché l'arte, come la religione, ma in maniera, scusate se cito Hegel senza aver fatto i debiti scongiuri, ma come dire, quindi senza, diciamo, come la religione, ma senza la sua un po' muffosa, come dire, solennità, l'arte implica esattamente, strutturalmente direi quasi in qualche modo, un punto di vista laterale, eccentrico, esagerato nel senso come ho detto prima, rispetto al sapere, non solo che magari vorrebbe, come dire, contestare, ma anche rispetto a quello in cui è fortemente fondata. Tutte le attività, tutti i fenomeni artistici di una qualche rilevanza, compresi quelli più carichi di muffa come il neoclassicismo e tutte queste pizze qua, insomma, ma anch'essi in qualche modo, anche Canova, anzi Tinuria Verbo, visto che stiamo qua in casa sua più o meno, o in una delle come dire, possibili case sue, anche in esperienze artistiche come quella di Canova, a volte rifulgeva, non molto spesso direi dal mio punto di vista, insomma, in qualche momento, cioè perché questa è la, non so se dire l'essenza, ma insomma una delle caratteristiche che in qualche maniera definiscono, che, quindi non c'è arte se non c'è esagerazione, se non c'è uscita dal solco, se non c'è conquista, attenzione, non presupposizione, perché presupporre un punto di vista diverso a volte si può fare, è relativamente semplice, ci salva l'anima. Abbiamo, sì, ma io mi sono messo da un altro punto di vista. Non è così. Per esagerare bisogna farlo il salto, bisogna saltare fuori dal solco, bisogna conquistarlo in qualche maniera in punto di vista diverso, bisogna soffrirlo, bisogna mettersi in gioco. Non lo sappiamo all'inizio nel duello vincerà Romolo oppure Remolo, chi dei due sarà, diciamo, la vittima e chi sarà il vincitore in questa, c'è collegato con questi processi un rischio. L'arte non è mai quando è arte reale, interessante, quando è, poi quando è ovviamente routine, cambiano le cose, insomma c'è anche l'arte routine, come c'è qualsiasi cosa routine, insomma, ma nel momento, noi non sappiamo mai qual è, noi mettiamo in gioco qualche cosa di vitale quando compiamo davvero un'operazione artistica, cioè quindi quando davvero siamo stati capaci di uscire dal solco e poi in qualche maniera di rientrarci e poi di partire. Allora, io fin da quando sono cose che ovviamente non è che hanno accompagnato sino dall'inizio la mia esperienza con Focus, però confusamente dalle prime volte che Mauro mi parlò di questa cosa, è ovvio che avessi una istintiva simpatia per questa, per questa esperienza che si proponeva di terremotare almeno un po' i confini disciplinari, mettere del sale anche sulle ferite a volte, anche su delle lacerazioni, anche su dei punti sensibili, no? Se non c'è la sensibilità, sensibilità vuol dire anche quello, vuol dire predisposizione al dolore, a mettere le dita, a non chiudere definitivamente due lenti magari di una ferita, di qualche cosa che ha avuto, quindi questo può voler dire, ma questo credo che voglia. E quindi per concludere, insomma, certo bisogna trovare i modi, e poi adesso non voglio entrare nel merito, anche perché come tutti sanno io sono sempre più lontano negli ultimi anni, anche per scelte non mie, insomma, dalla vita quotidiana di Brera, quando si fa un corso con un solo allievo, è ovvio che insomma, i legami con la scuola in qualche maniera si attenuano un po', insomma, ripeto, non credo per colpa di chi li ha. Di chi ha preso questa cosa, però insomma diciamo per quel legame che ancora in qualche maniera conservo con Brera ed è forte perché evidentemente in tutti gli anni è poi legato ad alcune delle lotte delle lotte, quindi anche delle prese di posizione più forti e più precise e più radicali e più definitive che ho fatto in questi ultimi anni. Quando c'è questa cosa, insomma, in qualche maniera si toccano dei punti nei quali la radicalità immaginaria e la radicalità sperimentata trovano dei punti di contatto. E io trovo che una scuola che non un'esperienza formativa, non so come diavolo chiamarla, tutti i termini ormai mi paiono, insomma, scuola, insegnamento, eccetera, esperienza formativa anche, non è che, insomma, pigliamo in un qualunque, insomma, ci capiamo, che vuol dire. Se in questa esperienza non c'è questo sale, questa spezia, questa componente della radicalità, io trovo che questa forse è una delle cause o uno dei sintomi che questa esperienza, non dico questa istituzione, ma questa esperienza complessivamente fa della fatica, cioè si trova in una situazione. Allora quindi forse bisogna, però prima che ridefinirla, io credo bisogna in qualche modo riportarla, se siamo in grado, a una condizione evidentemente non tale quale come era, ma in qualche maniera ad una condizione di maggiore apertura, di maggiore condizione di ridefinizione. Bisogna rinegoziare, io penso, per poter poi anche ridefinire, ma per poter ridefinire bisogna in primo luogo aprire, da tenere aperte le contraddizioni che ci sono, non bisogna spaventarsi di queste contraddizioni, bisogna agirle, bisogna da un certo punto di vista portarle sino in fondo e poi sapersi anche fermare naturalmente, e questa è l'arte della politica, e mi dispiace per gli estimatori della asetticità della cultura e di tutte le altre esperienze che sapete bene che non esistono esperienze asettiche nella panoplia della possibilità di esperienze umane, perché sono tutte, hanno tutte un'altra, diciamo, condizione. E quindi nell'ambito di questa, insomma, di questa condizione, insomma, di questa situazione, mi pare che la condizione per poter, cioè, insomma, detto in termini più semplici, non si possono fare le riforme a costo zero, a costo non intendo soltanto in termini evidentemente economici. Tutte le riforme vere costano in termini di relazioni, in termini di ridefinizione, in termini di anche piccoli terremoti. Se non si fanno dei piccoli terremoti non si rinnova nulla. Questa scuola è nata su di un terremoto, si è costituita e cresciuta su altrettanti piccoli terremoti. Io credo che i suoi momenti più vivi sono quelli in cui c'è stata questa capacità, questa possibilità di legare quello che succedeva fuori della scuola con quello che succedeva dentro. Ogni volta che la scuola si è ripiegata su se stessa e ha pensato di trovare all'interno di una propria specializzazione, normalizzazione, anche con tutte le migliori intenzioni del mondo, io credo ha sempre fatto cilecca. Si fa sempre cilecca quando si cerca di normalizzare, quando si cerca di far uscire il cardine variabile e anche un po' sghembo magari della come dire, esperienza, quando si cerca di inchiodarlo, beccarlo ai giorni martelli, perché a volte rischiamo non solo che abbiamo messo a posto il cardine della porta, ma che abbiamo anche inchiodato la porta stessa, non siamo più in grado né di aprirla né di chiuderla, come nel campo delle parole di chiuderci. Se posso, prima di presentare Franco, cioè di lasciare la parola a Franco, che è l'altro contributo centrale, magari a margine di questo discorso che ha fatto Antonio, dire cose. Intanto ci sono altre due belle citazioni che si potrebbero fare sul discorso dell'esagerazione che tu hai introdotto, e che sono una legata, diciamo, a una figura che ha introdotto Italo Calvino, che diceva che l'artista è colui che sa sporgersi da un parapetto sino al punto limite di poterne anche cadere giù, cioè trovare quel punto di equilibrio, che secondo me poi è stata ancora meglio espressa da Jacques Derrida quando diceva: l'arte è un virtuoso equilibrio tra senso della responsabilità e senso della irresponsabilità, che mi sembra una bella componente, perché l'arte non è solo esagerazione, ma è anche capacità poi di davvero tracciare il solco anche nel verso giusto, cioè è una condizione di grandiosa capacità di generare in questo equilibrio una forma di drammaturgia, di restare un po' più da una parte o più dall'altra, senza che l'esagerazione diventi forma di spettacolarità e quindi retorica dell'esagerazione, e senza che il procedere nel solco sia, come dire, invece una forma di assestamento senza varianti e di adesione quasi acritica. Quindi sono completamente in sintonia, non so se tu sei d'accordo su queste cose, che dico peraltro per bocca altrui, anche perché le abbiamo sperimentate. Ad esempio, uno dei punti di questi piccoli terremoti che tu dicevi nelle scuole di nuove tecnologie sei stato tu, ad esempio. Qui posso fare un accenno, diciamo, anche molto preciso alla tua figura, perché ricordo che quando andai da De Filippi a dirgli mi piacerebbe istituire due insegnamenti, che sono uno legato alla fantascienza e uno legato all'archeologia, alla paleotecnologia, che era rappresentato da te per quel che riguarda la fantascienza e Giulio Caligari per quel che riguarda la prima cosa che mi disse De Filippi: ma che cavolo stai dicendo, cosa c'entra con le nuove tecnologie sta roba? E era difficile forse far capire che invece queste oscillazioni che spostano in avanti e indietro, perché anche l'indietro può essere molto utile e interessante, come del resto si è verificato, le conoscenze delle persone possono essere veramente la capacità di abituarsi a mantenere l'equilibrio e anche di praticare la forma dello squilibrio. E allora poi Antonio è andato per la sua strada, ha fatto il suo corso, che ha avuto una importanza e ha dato un segno molto, molto forte a questa scuola, così come tutte le esperienze nelle grotte, con i cocci, con le anfore, con gli acciarini, con le percussioni delle pietre focali. No, focali, con delle selci, ecco. Ha avuto e ha ritrovato la sua collocazione dentro anche la struttura formativa di questa accademia. Penso che molti studenti si ricorderanno sia l'una che l'altra modello, diciamo, performativo. Ecco, è stato un piccolo terremoto, è stata una forzatura, però ecco, quella forzatura ci ha dato un segno in più, ci ha fatto andare avanti, e in questo sono completamente a sottolineare le parole di Antonio. Allora, ma io volevo cominciare con una citazione dalla presentazione, dall'intervento introduttivo di Mauro, però non avendo il libro non lo posso fare perché non me la ricordo, però la voglio fare lo stesso. Allora, all'inizio tu citi Alfonso, il personaggio di Vogliamo Tutto, e gli fa dire una frase bellissima che mi è rimasta così impressa che non me la ricordo più. E cosa dice Alfonso? Dice: io sono arrivato da Salerno a Torino e ho scoperto che cos'è? Si poteva fare tutto, o che siamo aperti a tutto. Sì, ecco, ed ero lì, aperto a tutto. Ecco, questa. Questo sbigottimento del buon selvaggio, Alfonso buon selvaggio, mica tanto buono per la verità. Alfonso è un operaio della Fiat, il personaggio di Vogliamo Tutto, che Balestrini mette in scena in questo suo romanzo, che racconta, oltre che i movimenti operai degli anni 60, 60, 68, 69, racconta poi in realtà lo sbigottimento del buon selvaggio, no? Ecco, di questo giovinotto, facilmente eccitabile, che arriva dal sud e che si trova di fronte ad un mondo dell'operaio massa che non sa di essere. Beh, ancora non è operaio massa, è perché quello che poi diventa è il divenire operaio massa. Ecco, e dice: eravamo aperti a tutto. Ecco, poi continuando il suo discorso, Mauro conclude dicendo che invece probabilmente il problema con il quale, questo non lo sono immaginato io, no, lo dici tu, adesso non lo dici tu, lo dico io, che la situazione nella quale oggi sembra di trovarsi sempre più drammaticamente è dell'essere aperti a niente, è dell'essere aperti a niente, ma non perché non vogliamo essere aperti o perché una nuova generazione di buoni selvaggi non è aperta a niente, ma perché non c'è niente a cui essere aperti, sembra, appare, ma forse è, ecco. Parto di qui per dire che la mia impressione è che noi ci troviamo indubbiamente in una situazione nella quale ma le abbiamo provate tutte, non funziona, ma non noi, cioè noi chi poi esattamente, io, Paolo Rosa, dei docenti invecchiati ripetendo delle vecchie utopie, queste, di, Rover, sì, di sì. Questi sto parlando, no, no, sto parlando della Bundesbank, sto parlando di Angela Merkel, sto parlando del grandissimo potere, è il grandissimo potere che le ha tentate tutte e non è in grado di venirne fuori. Ecco, il punto è questo, al punto, la mia partenza, poi non è che la faccio tanto lunga, ma parto di qua, parto da una sensazione di assoluta impotenza che caratterizza la soggettività contemporanea ai suoi livelli più grandi, più giganteschi. Noi tendiamo ad esempio a dimenticare, noi, adesso il noi si è spostato, non sono più i docenti invecchiati utopizzando né Angela Merkel la Bundesbank, ma l'intero Occidente. L'Occidente tende a dimenticare che nell'arco degli ultimi 10 anni ha perduto 2 guerre e una di queste, la guerra nell'Afghanistan, era stata iniziata con affermazioni assai ultimative. Questa è la guerra che non possiamo perdere. Questa è la guerra nella quale la civiltà occidentale si gioca tutto contro la barbarie. Oh ragazzi, l'avete detto, e sappiamo com'è finita, come sta finendo. Bene, dunque noi dobbiamo partire, e qui noi cambio un'altra volta, noi è l'intera umanità, noi umani dobbiamo partire da una doverosa assunzione di coscienza di un fallimento di proporzioni colossali, ecco, del quale l'Europa, ecco un altro noi che compare, noi europei, stiamo vivendo una sceneggiatura particolare del fallimento, che è il fallimento in questo caso dell'economia finanziaria, forse il fallimento del denaro stesso come strumento di regolazione delle faccende umane. Beh, potrei continuare con la lista dei fallimenti, passare l'intero pomeriggio, ma prometto che non lo farò. Di non fare curatore. Chiudo qua, il curatore fallimentare è la mia attività preferita degli ultimi. Il mio intervento, l'intervento in questo libro invisibile, è asintotico, è un libro asintotico. Che deve asintotico, un concetto che allude ad una curva che si avvicina senza raggiungere mai il punto. Il mio contributo a questo libro riguarda il tema dell'esaurimento. Non lo dico per fare pubblicità al mio pezzo, ma per dire che sono coerente, insomma, di questo mi occupo. L'esaurimento, tema che sta fuori dallo spazio del visibile, nell'intera esperienza della modernità, perlomeno nell'esperienza della modernità, l'esaurimento, il venir meno dell'energia sono degli argomenti qualche modo tabù. E però cos'altro? Noi vediamo esplosioni di energia, devo dire, sempre più risicate, ed un sopravvenire quasi immediato del venir meno. Ecco, benissimo, allora adesso finisco, vado verso una conclusione, che è una conclusione però invece piena di cioè, mi è venuta un'idea, ragazzi, e l'idea è questa, che in questa città, che devo dire negli ultimi tempi ha dato segni di vita, ha dato segni di vita, non c'è dubbio, segni di vita rapidissimamente spenti con uno zelo degno di miglior causa, non appena qualcuno si azzarda a segnalare la volontà, la capacità e l'energia, per l'appunto, di rimettere in gioco segni, proposte, progetti, attività, vita, ecco che alle 5 della mattina c'è qualcuno che va lì e lo fa accomodare fuori. In questa città si prepara un grande appuntamento, che è quello dell'Expo del 2015. Ora, io non è che mi voglio sporgere molto dalla finestra o fare proposte troppo impegnative, ma mi pare che quella sia un'occasione simbolica che vale la pena di prendere, insomma, di considerare significativa, perché qualcuno dovrebbe pur dire che questa deve diventare l'Expo del dopo la fine, l'Expo dell'esaurimento. Il tema dell'energia, il mito dell'energia, che è stato fondamento dell'intera storia della modernità, dal Faust a Marinetti, a Majakovsky, fino alla New Age, l'intera storia della modernità è fondata sulle mitologie dell'energia. L'Expo in qualche modo è fin dalla sua concezione la celebrazione di ciò che l'energia può esporre, ciò che l'energia è in grado di produrre e dunque mettere in vetrina. Bene, questa deve essere, per amor di verità, ma forse anche per amor di progresso, l'Expo della fine dell'energia, del venir meno dell'energia. Un messaggio che il Club di Roma lancia nel 1972 col libro Limits to the Growth, quando viene annunciato il fatto che se l'umanità vuole inventare, creare, deve partire dall'assunzione di una verità innegabile, che l'energia non è eterna. Prima di tutto il petrolio e poi perfino l'energia più potente di tutte, l'intelligenza umana, perfino quella può esaurirsi, e di questo le prove sono limitate. Ecco, perché non assumere questo, il venir meno dell'energia, come il grande tema dell'epoca che viene? Non lo dico perché mi piace fare l'annunciatore di disgrazie. Il venir meno dell'energia non è necessariamente una disgrazia, è la condizione per un nuovo pensare e anche per un nuovo agire, prima di tutto per un nuovo agire degli artisti, perché gli artisti, che sembrano essere in questo ultimo periodo così esagitati, oltre che esagerati, poi in realtà sono quelli che mi pare hanno, ammesso che abbiano un compito che certamente non ce l'hanno, e se ce l'avessero se ne fotterebbero, ma insomma, se una cosa possono fare è quello di mettere a frutto ciò che c'è, cioè di trovare la forma adeguata perché ciò che c'è, ciò che esiste, possa per l'appunto prendere forma, possa produrre, possa divenire utile e magari anche dilettevole. Non è un caso se negli ultimi tempi, dalla Biennale di Berlino a Documenta 13, interamente dedicata al tema dell'esodo, del fenomeno e così via, a questa espressività milanese che a un certo punto invade la città e che si firma collettivo di artisti. Perché gli artisti? Lavoratori dell'arte, ecco. Ancora più intelligentemente, i lavoratori dell'arte. L'arte, che è l'arte? L'arte è lavoro, e dunque precarietà, miseria, eccetera, eccetera, l'arte anche invece magari può essere esagerazione, può essere eccesso, eccesso, cioè esagerazione, poi è la stessa faccenda, ex, eccetera. Che è l'eccesso? Ecco, l'eccesso è quella... Wittgenstein dice i limiti del mondo sono i limiti del mio linguaggio, no? Cioè, oh ragazzi, noi abbiamo raggiunto i limiti del mio linguaggio, e dunque il mondo è destinato ad esaurirsi, a venir meno. Però quando dice i limiti del mondo sono i limiti del mio linguaggio, sta anche dicendo che il limite ha due facce, a quella che sta dentro il solco e quella che sta fuori dal solco, che per l'appunto è l'eccesso, è l'esagerazione. E gli artisti talvolta sono coloro che si assumono il compito di guardare il mondo dal punto di vista del non dicibile, di ciò che eccede il dicibile. Ecco, quindi l'esaurimento e l'esagerazione, questi mi paiono essere i due temi che varrebbe la pena di fare emergere, tutto qua. Non so se poi c'entra. Io ho letto alcune cose del libro, la bellissima introduzione di Mauro, che è piena di entusiasmi, eccetera, però al tempo stesso anche molto attenta a sottolineare i limiti della situazione presente. Conosco poche altre cose, ad esempio quella di Benassai Yang, che mi pare fosse di grande qualità, e conosco la combriccola, però, e quindi ho l'impressione che su questo tema, esaurimento ed esagerazione, che mi viene in mente adesso, non è che ce l'ho pensato, ma mi viene in mente adesso, ma in realtà mi pare che faccia un po' parte del campo tematico intorno al quale questo libro, che è Manu Kapper, tirar fuori le mani dal mancipio, liberare le mani da, è un'altra metafora che gira intorno alla stessa questione, la condizione di impotenza nella quale le mani si trovano attualmente, ed invece questa possibilità che sempre si apre grazie ad un eccesso forse possibile. Grazie. Se Paolo facesse l'ennesimo tentativo di sapere dove stanno questi libri, ma ammetterai che è più fascinoso. No, vabbè, che è così. Così si prosegue, si persegue. Col tema dell'esaurimento, qui saremo qui, sino all'esaurimento. Esaurito di così. Sino che apparirà l'esagerazione. E apparirà. Riporre nell'invisibile. Vabbè, tu comunque prova, perché se vuoi dire. Ma è chiusa la cosa, eh? Non lo so. Dicevo, se fai questa cosa telefonata, sì. Vediamo se tenere aperta o no. Se tenere aperte le due labbra della ferita, se no chiudiamo le ferite. Come hai visto la presentazione così senza libro?